Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Le 19:12:52, una buona serata, un buon sabato da Giampaolo Musumeci, ben ritrovati a Nessun luogo lontano. Una nuova puntata, una puntata speciale, tutta dedicata alle elezioni statunitensi. Vi ricordo la squadra: Nadia Zammitti in redazione, Carmelo Lauricella alla parte tecnica, e vi ricordo anche le coordinate, perché anche in questa puntata potete commentare, potete postare i vostri suggerimenti su Facebook, Nessun luogo lontano trattino Radio 24, potete scriverci via mail nessunluogo@radio24.it oppure via sms al 349-238-6666 o infine cinguettare Twitter nessunluogo24. Fra l'altro vi ricordo anche il blog di Nessun luogo lontano, andate su radio24.it, tra i programmi Nessun luogo lontano in fondo alla pagina c'è il blog con contenuti extra, suggerimenti, spunti, analisi, foto e quant'altro. Allora adesso andiamo negli Stati Uniti. Ma in realtà, più che andare negli Stati Uniti, questa sera ruoteremo il mappamondo a stelle e strisce, per tentare di fotografare l'impegno e la presenza americana nel globo, strategica, economica, militare, e quanto e come potrebbe cambiare in caso di conferma di Obama o vittoria di Romney. You know, Governor Romney, I'm glad that you agree that we have been successful in going after Al-Qaeda. But I have to tell you that your strategy previously has been one that has been all over the map and is not designed to keep Americans safe or to build on the opportunities that exist in the Middle East. Well, my strategy is pretty straightforward, which is to go after the bad guys. E qui sentite il battibecco in punta di penna tra Obama e Romney. Obama accusava Romney sulla strategia, la lotta al terrorismo, di essere un po' così, un po' confuso, e Romney gli replica: ma no, insomma, andiamo a caccia dei cattivi ragazzi e li faremo sparire. I due candidati, in realtà, a parte questo punto specifico, hanno parlato molto di questioni interne, hanno parlato molto alla classe media americana e hanno forse tralasciato le classi più povere. Si è parlato molto poco di politica estera, in realtà anche nel terzo dibattito non si è scesi davvero in profondità. Eppure gli Stati Uniti incidono e come negli equilibri geopolitici mondiali. Che cosa cambierà, se cambierà qualcosa? Quanto gli americani saranno in grado di gestire, orientare o decidere i destini di tante aree cruciali nel mondo? A differenza che nel 2004, anno in cui la politica estera dominava i dibattiti politici americani intorno agli sfidanti Bush e Kerry, nella campagna elettorale di quest'anno la politica estera ha ricoperto un piano marginale. Lo dimostra anche il fatto che dei tre dibattiti televisivi preelettorali tra i due candidati alla Casa Bianca, quello dedicato alla politica estera sia stato il terzo, tradizionalmente il meno seguito, e trasmesso la stessa sera di un'importante partita di baseball, Detroit Tigers contro San Francisco Giants. Tutti i recenti sondaggi d'opinione mettono lo stato di salute dell'economia e la disoccupazione ai primi posti tra le preoccupazioni degli elettori statunitensi. Inoltre, il ritiro dei soldati statunitensi dall'Iraq e quello ancora in corso dall'Afghanistan, insieme all'uccisione di Osama Bin Laden, hanno contribuito a rendere meno urgenti, agli occhi degli americani, questioni che fino a qualche anno fa avrebbero avuto la massima centralità. Lo stesso presidente Obama ha deciso di sfruttare meno i risultati di foreign policy ottenuti durante il suo mandato per insistere di più sulla necessità di fare nation building in casa propria, per aumentare forza e credibilità sul piano internazionale e su questioni direttamente collegate all'economia statunitense, come i rapporti commerciali con la Cina o le scelte di politica energetica. Per quanto riguarda lo sfidante repubblicano Mitt Romney, su diverse questioni di grande importanza ha mostrato di non possedere un'agenda autenticamente alternativa a quella di Obama, promettendo semplicemente un atteggiamento più determinato, al fianco degli alleati e duro con i nemici, tratteggiato con una comunicazione che si riallaccia ai classici slogan da falchi repubblicani. Saranno capaci gli Stati Uniti di rivestire quel ruolo di leadership che hanno ricoperto negli ultimi anni, sia che vinca Obama, sia che invece vi sia l'avvicendamento e vinca quindi Romney? Vi invito, gentili ascoltatori, a dire la vostra. 349-238-6666 via SMS oppure Facebook, nessun luogo lontano, scusate, trattino Radio 24. E do intanto il mio buonasera a Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS. Dottori, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. E una buona serata anche a Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. Gianandrea, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori, buonasera. Allora, per scaldare i muscoli vi propongo intanto una domanda a cui vorrei una risposta telegrafica. Dottori, sarà ancora un mondo a stelle e strisce? Ma presumibilmente sì, ma bisogna capire in che modo, e questo dipenderà notevolmente dalla scelta che faranno gli elettori americani il 6 novembre. Gianandrea Gaiani, l'Afghanistan, il ritiro annunciato nel 2014, è l'ultima vera, grande, lunga guerra combattuta dagli Stati Uniti, secondo te? Ma io credo che dovranno combatterne altre, ma l'impegno di Obama già si vede, quello di far combattere le guerre degli americani agli altri, che probabilmente è quello di restare i numeri uno a livello strategico, creando non pochi problemi ai competitor degli Stati Uniti, e non sono solo competitor militari strategici, ma anche competitor economici e politici. E quanto sarà ancora un mondo a stelle e strisce, lo ricordava a inizio trasmissione Germano Dottori, dipende ovviamente dagli elettori che il 6 novembre dovranno decidere tra Romney e Obama. Allora facciamo un passo indietro. Germano Dottori, la politica estera di Obama fino ad oggi, definizione e stato dell'arte, così iniziamo a capirci meglio. Allora, dal mio punto di vista la politica estera che ha sviluppato il presidente Obama è stata una politica assolutamente non convenzionale, ai limiti del rivoluzionario sia nei metodi che nelle scelte, ed è anche per questo che si fatica molto a comprenderla. Io credo che il modo migliore di definirla e rappresentarla sia quello di far riferimento al concetto di smart power o potere scaltro, che è veramente al nucleo della tecnica con cui Obama gestisce gli affari mondiali. Se vincerà Obama, se vincerà Romney, vedremo se questo smart power dispiegherà ancora i suoi effetti. Gianandrea Gaiani, dal punto di vista militare, come si è estrinsecato, come si è esplicato lo smart power, questa dottrina voluta da Obama? Credo che il modo più chiaro per vedere come Obama ha cambiato rispetto ai predecessori la strategia militare sia valutare gli interventi militari massicci con centinaia di migliaia di uomini di fatto impegnati di Bush in Iraq e in Afghanistan, e la strategia di Obama, che invece, oltre a ritirarsi dall'Iraq in una guerra tra virgolette vinta, e invece dall'Afghanistan, un ritiro in atto in una guerra che proprio Obama ha deciso di perdere il giorno che nel 2010 annunciò l'invio dei rinforzi, dicendo però contemporaneamente dall'anno prossimo cominceremo a ritirarci, una sorta di suicidio strategico che ha regalato, rischia di regalare la vittoria ai talebani, però poi ha sviluppato una strategia alternativa, o almeno una strategia che lui spaccia come alternativa. Ed è quella che vede la commistione fra forze speciali e CIA, un'operazione mai vista prima, che io sappia, che io ricordi, mettere al Pentagono Panetta, l'uomo che aveva guidato la CIA, mettere alla CIA Petraeus, il generale che aveva portato alla vittoria in Iraq e che aveva sviluppato questa dottrina della controinsurrezione anche in Afghanistan. E quindi oggi cosa fanno gli americani, oltre a ritirarsi dall'Afghanistan? Attaccano i loro nemici, particolarmente uomini di Al-Qaeda, esponenti di gruppi jihadisti in tutto il mondo, con piccole unità, molti droni, piccole unità di forze speciali, molti contractors, oltre che molti droni, che conducono una guerra parallela, una guerra segreta, una guerra con poche vittime, almeno per quanto ne sappiamo noi, ma una guerra mirata ad uccidere alcuni personaggi chiave dell'eversione che ha colpito gli Stati Uniti. Non più quindi interventi militari massicci e costosi, che l'America forse oggi non può più permettersi, e anche in termini finanziari. E questo però ci porta anche a una valutazione diversa, che è quella di dove vuole andare l'America e come Obama ha cambiato la strategia americana. Io credo, in maniera anche provocatoria, che mentre con Bush l'America ha giocato le sue ultime carte da potenza stabilizzatrice, con l'obiettivo di stabilizzare le aree più critiche e minacciose del mondo, beh, con Obama abbiamo visto il contrario, forse un'azione creata, determinata a creare aree di destabilizzazione a tutto svantaggio dei rivali degli americani. Il ritiro dall'Afghanistan non risolverà i problemi, ma lascerà ai vicini, alle potenze regionali, India, Russia, Cina, il problema dell'estremismo islamico e dei talebani. Ecco, fra l'altro hai citato, come dire, il problematico ritiro dall'Afghanistan. È chiaro che una politica dell'annuncio con presenza di truppe nel territorio e un ritiro programmato e nel tempo, che si dispiega nel tempo, è chiaro che, come dire, rende le cose molto molto più difficili sul terreno. Basti pensare a tutte quelle zone limitrofe, quei villaggi contesi tra le truppe ISAF e i talebani, e a un certo punto questi capovillaggi si vedono tolti il sostegno delle truppe alleate, che da un mese all'altro dicono: beh, sapete cosa c'è, noi ce ne stiamo andando. E quindi, insomma, questo sicuramente ha creato problemi sul terreno. Dall'altro, un ritiro annunciato ha fatto alzare la testa, come sappiamo bene, leggendo le cronache afghane, sono sempre di più gli attentati anche da dentro, perché insomma anche i talebani si preparano al ritiro, e quindi, fra l'altro, lo sa bene Karzai. Germano Dottori, torniamo al grande antagonista, al grande sfidante. Se vince Romney, cosa cambia in queste grandi linee generali che abbiamo tratteggiato? Beh, presumibilmente Romney tornerebbe a un filone più tradizionale della politica estera americana, cercherebbe di rilanciarne la leadership. Soprattutto, e questo credo che sia stato molto poco evidenziato dai media, tanto quelli statunitensi quanto quelli europei, verrebbe cambiato uno degli elementi centrali della strategia perseguita negli ultimi 2 anni almeno dall'amministrazione Obama. Verrebbe meno questo leading from behind, cioè la guida dal sedile posteriore, per tornare al vecchio schema del leading from the front, cioè guida proprio dalla posizione principale, in qualche modo rivendicazione di leadership. Questo lo ha chiarito molto bene Condoleezza Rice nel suo intervento alla convenzione repubblicana di Tampa. E per noi europei, per quanto non privo di problemi, questo tipo di approccio sicuramente presenta dei vantaggi. Nel senso che mentre la dottrina Obama, la politica estera americana dell'amministrazione Obama, ha avuto un impatto fortemente divisivo sull'Europa e ha rappresentato una difficoltà nell'avanzata del processo di integrazione europea, perché ritirandosi in parte dall'Europa e dal Mediterraneo, gli Stati Uniti hanno determinato in qualche modo una ripresa della rivalità tra le principali potenze europee, soprattutto la rivalità tra Francia e Germania. Lo abbiamo visto in occasione della guerra di Libia e potremmo vederlo anche in occasione di un eventuale conflitto in Mali. L'idea di Romney di rilanciare la leadership americana presuppone in qualche modo anche un rilancio dell'Occidente, quindi dell'unità occidentale, quindi del rapporto transatlantico. Certo, un presidente Romney chiederebbe agli europei molta disciplina e molta più solidarietà di quella che ha preteso l'amministrazione Obama, però questo verrebbe compensato dal fatto che l'America tornerebbe a risolvere per noi quel problema della leadership all'interno del nostro continente, che altrimenti si aprirebbe con gli effetti che abbiamo cominciato a vedere in questi ultimi anni, ripeto, con Berlino, Parigi, in una certa misura inferiore, Londra, Roma e Madrid, che bisticciano fortemente sulle scelte fondamentali, non solo le scelte di politica internazionale, ma anche le scelte della politica economica, che in questa fase storica fanno parte della grande politica internazionale. Sul teatro europeo ci torniamo tra pochissimo, anche sull'antagonismo francese. Intanto però scorro un po' di sms arrivati al 349-238-6666. Da quello cinico al vetriolo di Cristiano: l'impero traballa, tutto finisce, riferito evidentemente all'impero americano. E poi rivoluzionario Obama, no, il 50% in più di debito pubblico, aumento delle tasse, politica monetaria scellerata, bacchetta un ascoltatore o un'ascoltatrice, poi un'ascoltatrice invece dice: in ogni caso resteranno i soliti banditi, si faranno odiare come sempre, si lamenteranno per gli eventuali attentati. Qua, insomma, alcuni ascoltatori si schierano decisamente. Poi un altro: secondo me quello che non viene mai detto è proprio il punto chiave della discussione, quello di cui parla sempre Massimo Fini, la guerra democratica, che in realtà è una continuazione dell'imperialismo addirittura ottocentesco. Beh, insomma, dell'imperialismo americano, dottori, abbiamo un minuto e mezzo prima del GR. Quanto un'eventuale vittoria di Romney, come dire, quanto Romney potrebbe liberarsi da questa etichetta? Obama forse in qualche modo l'ha stemperata, no? Si è un po' liberato da questa immagine. Romney invece? Non sono del tutto d'accordo, perché la guerra democratica in realtà è un fenomeno che non si lega all'amministrazione Obama né esclusivamente agli Stati Uniti. Nel caso della Libia, per esempio, è un concetto che è stato brandito molto più dalla Francia che non dagli Stati Uniti. Quindi io non penso che assisteremo a delle straordinarie novità. Quello che cambia, insisto, quello che fa la differenza tra il presidente Obama e il Mitt Romney è il discorso dei metodi e degli strumenti. Obama utilizza strumenti molto meno visibili, se vogliamo apparentemente più morbidi, cavalca il web per esempio, e si serve, diciamo, di energie che si alimentano moltissimo delle opinioni che emergono nella società civile internazionale. In realtà poi gli obiettivi sono gli stessi, perché tanto Romney quanto Obama in realtà mirano a prolungare il periodo della supremazia globale degli Stati Uniti. Io non concordo con l'ascoltatore che ha parlato di un declino americano. L'America è più forte che mai, e anche il suo debito è un falso problema, perché gli Stati Uniti sono l'unico paese al mondo che può colmarlo stampando una carta moneta che è accettata da tutto il resto del pianeta come un mezzo di pagamento. Allora, la leadership mondiale, il dibattito e la grande sfida Obama-Romney a Nessun Luogo Lontano, subito dopo gli aggiornamenti dal GR. Nessun luogo è lontano. Il duello Obama-Romney è in qualche modo i destini del mondo. Quanto la leadership americana sarà ancora quella che conosciamo da decenni, o se un cambio al vertice del paese più potente del mondo cambierà? Questo stiamo cercando di indagare questa sera a Nessun Luogo Lontano. Lo stiamo facendo con Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS di Roma, e Gianandrea Gaiani, esperto di strategia militare, direttore della rivista Analisi Difesa. E intanto però i nostri ascoltatori si sono accesi rispetto al tema e sono arrivati parecchi sms al 349-238-6666. Allora, Beppe da Guastalla: gli Stati Uniti, nonostante alcune loro contraddizioni, rimangono pur sempre il modello vincente, anche perché non ce ne sono altri se non scandalosi. Li fa da contrattare Joe, che dice: per gli americani la conquista del West non è finita con la conquista del West, praticamente per loro il resto del mondo non sono altro che tribù indiane da civilizzare. E poi ancora, Romney e la leadership diretta è obsoleto, è confuso il messaggio, sono strani segni che non riesco a leggere. Però dice: parlate di stati-nazioni, ma chi comanda sono le lobby e le multinazionali. E infine una bacchettata a lei, dottori: non si può stampare denaro per ripianare debito a gratis, il dollaro perderebbe valore e ci vorrebbe un migliaio di euro per comprare un hot dog. Così dice un ascoltatore. Come risponde, dottori, a questa critica feroce? Ma vede, io rispondo citando un precedente storico. Il grande riarmo con cui il presidente Reagan fondamentalmente vinse la guerra fredda venne realizzato drenando risparmio dall'Europa e dal Giappone con la pratica di una politica di altissimi tassi di interesse. Al momento in cui i titoli americani vennero a maturazione, cioè a scadenza, e l'America dovette restituire i soldi che aveva preso in prestito, Reagan ottenne e pilotò una svalutazione del dollaro del 50%. Risultato, l'America si appropriò del 50% in termini reali del valore che aveva chiesto in prestito agli europei e ai giapponesi. Questo è il grande timore ancora oggi che nutrono i cinesi nei confronti degli Stati Uniti ed è anche per questo che si osserva una grandissima cautela sul terreno della politica economica internazionale perché nessuno vuole incoraggiare una svolta degli Stati Uniti in questa direzione. Può essere interessante notare che sul piano economico Romney contesta moltissimo l'approccio di politica monetaria adottato dall'amministrazione Obama e in sincrono dal chairman della Federal Reserve Bernanke. Obama ha cercato di fare molta cheap money, no? Ha fatto stampare tanta carta moneta in qualche modo per sostenere l'uscita dell'America dalla recessione. Però in questo l'America si è messa in rotta di collisione con la Germania e il risultato è stato, specialmente negli ultimi due anni, ma ancora di più nell'ultimo anno, una fortissima pressione degli Stati Uniti sulla Germania di Angela Merkel tesa ad ottenere un cambiamento del tenore della politica monetaria europea. Il risultato sono state le decisioni assunte da Draghi e dal board europeo che hanno cercato un po' di allentare la presa anche da noi. Romney vuol tornare alla Reaganomics, cioè stringere sul debito, stringere sulla moneta, quindi alzare i tassi di interesse e drenare nuovamente risparmio dal resto del mondo. Cioè sostanzialmente l'America finanzierebbe la sua ripresa non più con la carta moneta interna, bensì con i risparmi del resto del mondo. Questa, diciamo, è l'alternativa di politica economica generale che esiste tra Obama e Romney. Non è che le differenze sono leggere, sono a mio avviso pesantissime, soltanto che ci vogliono degli strumenti di analisi sofisticate per comprenderle. Allora, abbiamo parlato di quello che è il teatro europeo e molto vicino, al di là del Mediterraneo, c'è il capitolo Libia che vorrei aprire. A seguito dell'assalto al consolato americano a Bengasi l'11 settembre scorso, gli Stati Uniti hanno subito dislocato una flotta di velivoli di combattimento nelle basi militari di Sigonella, in Sicilia, e a Suda Bay, a Creta. Gli Stati Uniti si tengono pronti per un attacco in Libia, ma questa attesa potrebbe durare in eterno. Washington non è certa che un'operazione punitiva sia davvero efficace. Il problema non è tanto la fattibilità, quanto l'opportunità politica e giuridica. Quattro fattori frenano gli entusiasmi suscitati dalle parole del vicepresidente Joe Biden. Se colpisci l'America, ti verremo a cercare fino alle porte dell'inferno. In primo luogo, l'identità dei responsabili. L'intelligence americana punta il dito contro una milizia salafita, chiamata Ansar al-Sharia, ma in Libia esistono due gruppi armati che usano questo nome. Uno si trova a Derna, e tra i suoi comandanti ci sarebbe l'inviato di al-Zawahiri dal Pakistan. Un altro opera invece a Bengasi ed è tra le brigate incaricate della sicurezza e dei servizi sociali della città. In secondo luogo, un'operazione militare rischierebbe di alienare le simpatie libiche. Le élite del paese africano si sono espresse contro una missione di forze speciali sul suo territorio o un attacco con i droni. Se Washington ignorasse queste rimostranze, come ha già fatto in Pakistan per scovare Bin Laden, delegittimerebbe le già fragili autorità libiche. E Tripoli è forse l'unica capitale nel Maghreb che gli americani possono chiamare alleata, in una regione in cui sono costretti ad accettare il dato di fatto degli islamisti al potere. In terzo luogo, non esiste più la copertura legale per un attacco. La guerra stelle strisce al terrore, fondata sull'Authorization for Use of Military Force, approvata dal Congresso il 18 settembre 2001, sette giorni dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Tuttavia, essa affida all'esecutivo il potere di perseguire solo Al-Qaeda, i talebani e i militanti a essi affiliati in Afghanistan. Oggi quegli obiettivi sono stati eliminati o indeboliti, ed anche interpretando estensivamente il concetto di affiliati, non si trovano prove che sia stata Al-Qaeda o un suo affiliato a guidare l'assalto a Bengasi. Gianandrea Gaiani, quanto strategica è la Libia, non solo, però tutto il Nord Africa per gli Stati Uniti? Sappiamo che Africom gli americani hanno presenza a Gibuti, ad esempio, da dove fanno decollare i droni sulla Somalia, hanno basi in Etiopia. Però tutta la parte del Maghreb, del Nord Africa, è estremamente cruciale. E loro come e se potrebbero penetrare militarmente tutta quella fascia? Ma loro l'hanno già penetrata militarmente. Cominciò Bush dopo l'attacco dell'11 settembre 2001, creando proprio nella fascia del Sahel, già allora identificata come un'area di penetrazione molto forte dell'islamismo armato, del qaedismo, allora proveniva per lo più dal sud dell'Algeria, e oggi i focolai sono diversi, sono tanti, e creò un'organizzazione, la Trans-Sahara Counter Terrorism Initiative, finanziata dagli americani, che mirava ad addestrare le forze locali di questi paesi molto povere e male armate, a inserire in queste aree reparti di forze speciali. Questa strategia è stata implementata da Obama, oggi abbiamo basi in diversi paesi del Sahel, in Repubblica Centrafricana, in Etiopia, tu l'hai ricordato, i droni americani e i loro contractors si muovono, quindi ex militari in servizio presso dipendenti di società civili a contratto dal Pentagono, si muovono liberamente con azioni appunto che non vengono registrate né approvate dal Congresso, e in Somalia, dove hanno colpito duramente, ma anche in Mali, si dice, e in altre zone. Insomma, quell'area era di interesse prima con Bush, lo è anche oggi, però oggi la situazione è peggiorata anche a causa di questa scellerata, io la definisco così, guerra alla Libia, nella quale gli americani, i francesi e anche noi italiani dagli alleati abbiamo eliminato un regime certo dittatoriale, certo non democratico, quello di Gheddafi, senza però avere la capacità, perché l'Occidente non sta perdendo questa capacità, di andare con i propri soldati a stabilizzare. L'Afghanistan, l'Iraq ci hanno bruciato e non abbiamo più questa capacità. Abbiamo lasciato ai libici il compito di stabilizzare un paese che oggi è diviso fra 70-80 milizie, non c'è un esercito libico, ci sono delle milizie che dicono di essere fedeli a un governo che però è nato ieri e non si sa bene che legittimità abbia. Quindi non ci dimentichiamo che la guerra in Mali, l'occupazione del nord del Mali da parte degli islamisti è stata possibile grazie alle armi saccheggiate dai depositi di Gheddafi. C'è un paradosso: nel 99 Gheddafi, proprio nelle colline del Jebel el-Akhdar, le colline verdi vicino a Derna, eliminò gli jihadisti con un'operazione militare che mobilitò 30.000 uomini, inclusi 1.000 mercenari serbi. E oggi ci ritroviamo nella stessa regione dei gruppi che sono forse responsabili dell'attacco di questo ultimo 11 settembre al consolato americano a Bengasi, o base CIA a seconda delle diverse interpretazioni, sì. E ci ritroviamo a dover colpire o a pensare agli americani di colpire in quella stessa area un nemico che Gheddafi aveva già distrutto tanti anni fa e che noi abbiamo fatto resuscitare, dico noi come occidentali, come NATO, eliminando Gheddafi e lasciando la Libia nell'anarchia più totale. Sì, perché il colonnello pestava duro sulle spinte jihadiste, certo. Citavi proprio la zona di Derna, che io ricordo sempre questa statistica che quando ho letto mi ha insomma scioccato: la quasi totalità degli attentatori kamikaze a Baghdad nel 2004 venivano proprio da Derna. Erano ex componenti del gruppo militante islamico combattente libico, ecco, affiliato ad Al-Qaeda. Ecco, Germano Dottori, manca un minuto e mezzo al traffico e quindi le chiedo risposta telegrafica su questo punto. Romney è apparso al dibattito sui cattivi ragazzi, no? La lotta al terrorismo sembrava un po' vago, un po' in generale sembra al traino di Barack Obama, almeno a parole, insomma, sulla politica estera. Sul punto della lotta al terrorismo, chiamiamola così, pensa che ci potrebbero essere delle cesure importanti? Beh, io intanto non condivido del tutto la sua impressione. Secondo me, anche nelle scarne parole che ha pronunciato Romney è emersa la differenza, perché un tratto distintivo dell'amministrazione Obama è stato quello di archiviare la campagna internazionale contro il terrorismo jihadista e di puntare invece sull'emersione e l'ascesa al potere nei paesi musulmani del cosiddetto Islam politico. Sì. Sostanzialmente Obama ha scommesso sulla fratellanza musulmana, che prima era giudicata un interlocutore pericoloso, quasi un proxy dei terroristi. Sì, è anche vero che è dovuto a Obama la morte di Bin Laden, per cui questa stelletta sul petto... Le due cose si combinano perfettamente, perché ben difficilmente il raid di Abbottabad sarebbe stato possibile in una condizione diversa da quella che si è realizzata con lo scoppio della primavera araba. Non deve stupire il fatto che la morte di Bin Laden, la morte violenta di Bin Laden, non abbia determinato alcuna protesta significativa delle piazze arabe. Questo sì. È stato reso possibile perché tramite il sostegno alla primavera araba, in qualche modo l'amministrazione Obama ha sostenuto la creazione di una alternativa all'immobilismo politico-sociale che caratterizzava i paesi musulmani. Intendiamoci, lo stesso obiettivo perseguiva anche il presidente Bush con la sua idea di democratizzare il Medio Oriente. La differenza tra Bush e Obama è che mentre Bush pensava alla democratizzazione come occidentalizzazione del Medio Oriente, Obama ha rinunciato all'occidentalizzazione del Medio Oriente e accetta invece l'idea di democratizzare attraverso l'islamizzazione politica di questi paesi. Allora, però, però per noi europei è problematica. Il traffico, poi di nuovo, nessun luogo sarà lontano. Nessun luogo è lontano. (349) 238-6666, il numero che stanno digitando gli ascoltatori per lanciare questi messaggi al vetriolo, il tenore, insomma, Stati Uniti imperialisti, c'è chi cita Che Guevara, c'è chi dice gli avvenimenti ci travolgeranno, chi dice ancora la politica americana è basata sulla guerra e con questa si può risollevare l'industria fabbricando armi. Allora, stiamo facendo il punto su quanto e come cambierà l'impegno, non solo militare, americano nel mondo. Siamo con Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUIS, e Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. Prima di aprire il grande punto di domanda, il grande buco nero africano, ascoltiamo un attimo che cosa hanno detto sulla Siria Obama e Romney. What we've done is organize the international community saying Assad has to go. We've mobilized sanctions against that government. Insomma, Obama rivendica il ruolo di aver mobilitato la comunità internazionale dicendo Assad se ne deve andare, le sanzioni, si sono assicurati che fossero isolati, e Romney però gli ha risposto: beh, si poteva però fare qualcosa di più. Che cosa succederà nel caso che vinca l'uno o che vinca l'altro? Germano Dottori, in estrema sintesi, perché il tempo ormai è alle sgoccioli. Questo è il punto più difficile da prevedere, probabilmente, perché inizialmente la posizione americana era quella di un sostegno significativo all'insurrezione anti-Assad, poi la crescita della forza dei jihadisti all'interno dello schieramento che si oppone ad Assad ha imposto un ripensamento che ha anche un'altra ragione, cioè l'esistenza di un problema importante con la Russia. La Russia è riuscita finora a bloccare qualsiasi tentativo della comunità internazionale di promuovere, secondo il termine di Fini, una guerra umanitaria contro Damasco. E, a mio avviso, è molto difficile che ci si schiodi da questo impasse. Probabilmente la guerra di Siria andrà per le lunghe e si risolverà soltanto una volta che gli equilibri sul campo permetteranno una trattativa. Ecco, Gianandrea Gaiani, sul campo però, come sappiamo, come abbiamo visto in Libia anche con i nostri occhi, è facile infiltrare piccole unità di elite, e lì, insomma, in quel teatro, che sia l'uno che sia l'altro, voglio dire, non c'è... Ma ci sono già, ecco. Ci sono indiscrezioni che hanno riferito addirittura che ad Aleppo, già nei mesi scorsi, c'erano unità dello Special Air Service britannico, qualche contractors americano. La CIA ha ammesso di avere i suoi uomini lungo la frontiera turca che cercano di fornire armi ai ribelli giusti, cioè a quelli moderati e non estremisti islamici. Il problema serio credo che però sia sul piano militare, che le truppe di Damasco non hanno la forza per liberare il paese dai ribelli, diciamo così, e i ribelli non hanno la forza per liberare le città più importanti o comunque per cancellare militarmente il regime. Detto questo, mi sembra che gli americani sì, hanno perseguito in Siria, stanno perseguendo in Siria la stessa strategia che hanno perseguito in tutto il Medio Oriente, e cioè togliere di mezzo regimi loro amici, tra l'altro, perché Mubarak in Egitto o Ben Ali in Tunisia erano amici degli americani, per mettere al loro posto regimi islamisti moderati, io dico tra virgolette perché lo vedremo, che creeranno non poche difficoltà sicuramente a noi europei che siamo lì di fronte. Ma in Siria manca l'alternativa. Tutti dicono, anche Romney, mandiamo più forze, eliminiamo Assad. Sì. ma chi ci mettiamo al posto di Assad? Negli anni 40 Roosevelt parlava del dittatore nicaraguense Somoza dicendo: è un figlio di buona donna, ma è il nostro figlio di buona donna. E mi pare che non ci sia un figlio di buona donna nostro da mettere al posto di Assad. Ecco, questo tra l'altro, questo buco crea un grosso problema strategico. Quindi la Siria rimane una gatta da pelare per chiunque si avvicinerà alla Casa Bianca, con lo spettro di, vabbè, poi le, come dire, le metafore, i paragoni si sono sprecati in questi mesi, un'altra Libia, un'altra Afghanistan, insomma staremo a vedere. Rimane un grande punto di domanda. L'altro grande punto di domanda è l'Africa, l'Africa subsahariana, l'Africa nera. Abbiamo appena sentito Elias Moulukirus, che è un poeta, blogger etiope, a cui abbiamo chiesto un breve commento sull'assenza di temi riguardanti l'Africa nera nel dibattito presidenziale statunitense. As I stated in the article, I don't think they even mentioned... E lui cita un suo articolo pubblicato nel suo blog, che poi posteremo su Facebook, è ripreso da Pambazuka. Pambazuka è un think tank africano molto molto interessante, si avvale di contributi di africanisti ma africani, per cui è da tenere d'occhio. Dice: non penso che abbiano mai menzionato i problemi dell'Africa, se l'hanno fatto si sono limitati a quelli della Somalia, del Mali, del Nord Africa in generale, dove si è riacceso l'estremismo islamista. Si sono focalizzati principalmente su questo tema, il resto dell'Africa non è stato toccato in realtà. Se poi si va a leggere appunto il suo lungo articolo, lui è un po' dispiaciuto, diciamo, da africano, di leggere questo disinteresse, perché anche quando si è parlato di Mali, di Somalia, lo si è incluso nel grande cappello, nel grande ombrello dell'islamismo o del Medio Oriente. Eppure in Mali c'è una crisi in atto incredibile, c'è uno stato di terrore, lo possiamo definire così, perché tre gruppi jihadisti controllano una vasta parte del Mali. Germano Dottori, questa disinteresse, almeno a parole da parte degli Stati Uniti, dei due candidati, come è spiegabile? Perché l'Africa in realtà è molto cruciale. Beh, si spiega alla luce di questa considerazione: il 6 novembre si elegge il presidente degli Stati Uniti, non il presidente del governo mondiale, e quindi evidentemente i problemi del mondo in una sede del genere vengono analizzati attraverso il prisma degli interessi nazionali americani, e ognuno dei due candidati punta sull'interesse che ritiene di essere in grado di tutelare meglio del proprio rivale. Ciò detto, gli interessi degli Stati Uniti in Africa, a mio avviso, ruotano tutti intorno a una specie di losanga che comprende l'Uganda, il Ruanda, il Kenya, il Sud Sudan e l'Etiopia, con un perno proprio nel paese governato da Paul Kagame, che è stato al centro di tutte le più importanti strategie statunitensi nel continente nero dai tempi dell'amministrazione Clinton. Sì. Io credo che quello sarà il focus maggiore dell'interesse chiunque vada a governare gli Stati Uniti nei prossimi 4 anni. Ecco, fra l'altro appunto, ha citato il Ruanda, dove è in corso una querela piuttosto accesa, perché un rapporto delle Nazioni Unite recentemente accusa proprio il Ruanda di spalleggiare la rivoluzione nella vicina Repubblica Democratica del Congo, il Kivu. Per far questo, dopo questa pubblicazione, gli Stati Uniti hanno tagliato i $200,000 l'anno di aiuti militari, poi a seguito però l'Europa hanno congelato gli aiuti a Kigali. Insomma, Ruanda è estremamente strategico, però c'è qualche analista che comincia a dire: attenzione al Ghana, perché i grossi investimenti statunitensi nel Ghana, un po' più sotto, potrebbero essere il nuovo grimaldello per gli Stati Uniti per entrare appunto nell'importante e cruciale continente dove, ripeto, c'è una vera e propria, scusate se parlo per slogan, multinazionale del terrore, che va da Boko Haram, Al-Qaeda, finisce Al-Shabaab in Somalia, e insomma, visto che gli Stati Uniti fanno della lotta al terrore la loro bandiera, sicuramente non ignorano. Chiedo, siamo quasi in chiusura, Gian Andrea Gaiani, la presenza militare in Africa degli Stati Uniti ultimamente è fatta molto di fioretto, no? Molto di droni, molto di corpi speciali. Penso ai 100 Marines e 100 corpi d'élite mandati a caccia di Joseph Kony, leader dell'LRA. È questa la politica e sarà sempre questa, no? Beh, diciamo che l'Africom, il nuovo comando che tu prima hai citato, nelle operazioni in Africa per adesso si muove su operazioni anche coperte di poche unità, abbiamo parlato di forze speciali, ma ci sono tante altre operazioni nel Sahel, in alcuni paesi dell'Africa centrale e probabilmente anche in Congo, che vengono gestite più dalla CIA che dalle forze militari, anche se impiegano combattenti a contratto, cioè contractors privati che sono agli ordini, che si muovono su iniziativa del Pentagono e della CIA. Quindi per ora è una guerra di bassa intensità, condotta contro obiettivi mirati, con interessi specifici, ed è la guerra a stile Obama, una guerra dove non c'è bisogno di mandare, l'Africa del resto già lo ha insegnato, mandare moltissimi soldati laggiù senza un obiettivo ben preciso è solo un suicidio, anche in termini non solo strategici ma anche finanziari. E una cosa volevo aggiungere, sì. È vero che nel dibattito politico tra i due contendenti alla presidenza della Casa Bianca non si è parlato di Africa, ma del resto si è parlato pochissimo anche di Europa e qualcuno si è offeso anche da noi, qualche editorialista si chiede ma come nell'Europa non parlano, se non per fare qualche riferimento, sì, a parte Romney che ha citato, esatto. Sì. Quindi voglio dire, per l'elettore americano, l'elettore americano l'Africa è veramente un altro pianeta, è come va forse anche l'Europa, e in campagna elettorale si parla di cose che colpiscono l'elettore, chi deve andare poi a decidere chi sarà il presidente. Chiarissimo. Ma insomma, l'agenda africana esiste per entrambi e magari non l'hanno scritta loro, forse non l'ha scritta Romney, ma sicuramente Condoleezza Rice e i consiglieri di Romney, repubblicani per la difesa e la politica internazionale, hanno le idee chiare sull'Africa, anche perché lì è in gioco un grande confronto di penetrazione con la Cina. Assolutamente. Grazie. Allora, Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, buona serata, buon lavoro. Grazie. Germano Dottori, grazie. Docente di studi strategici alla LUIS. Io ringrazio Nadia Zemmiti, redazione, Carmelo Lauricella, la parte tecnica, voi per essere stati all'ascolto. C'erano tanti sms, va bene. La prossima volta noi ci risentiamo sabato 19:15, ma ricordate che nessun luogo è lontano.